известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Speciale domenica, no? Di spettacolo, ma anche di riflessione, quella che è andata in scena ieri in America e in collegamento Mondovisione, no? In tutto il pianeta. Una domenica speciale, c'era il Super Bowl c'è solo una volta l'anno, la nazione letteralmente si ferma per vedere chi diventerà il nuovo campione del football professionistico. È anche occasione per delle grandi riunioni, dei grandi raduni, ci si trova tutti insieme, si fa il barbecue, i televisori spesso, se le condizioni climatiche lo permettono, vengono portati fuori in giardino o comunque si sta tutti insieme, insomma la partita la si gode in compagnia di amici e familiari oppure nei grandi bar delle metropoli, ed è successo anche ieri, c'era addirittura la partecipazione speciale del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che a sua volta non solo l'ha fatto, ovvero si è messo in maniche di camicia e si è seduto davanti al televisore, ma ha trovato anche il tempo, il modo, il tempismo anzi, di farsi intervistare proprio in coincidenza con la partita, sfruttando così a modo suo, no, il formidabile quantitativo di spettatori che attendevano l'inizio dello scontro fra Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals. Hanno vinto, come ormai tutto il mondo sa, gli Steelers con agli ultimi secondi, una partita estremamente combattuta. Pittsburgh è in festa, la città è attraversata da tifosi vestiti in maglioni gialli, non magliette perché fa un freddo, dell'accidente in quel posto. Oggi nel corso del programma ascolteremo quasi tutto, insomma buona parte dello show che Bruce Springsteen ha offerto nel tradizionale appuntamento spettacolare dell'intervallo, no? Quando per un momento lo sport viene messo come solo gli americani riescono a fare. Pensate un po' se a metà di Inter Milan si ferma tutto e dovessero entrare gli inservienti, montare un palco e arriva Claudio Baglioni che fa uno spettacolo, Jovanotti, e il pubblico entra addirittura sul prato. Invece questo in America succede tranquillamente, il bello è che poi se ne vanno anche sia il pubblico che gli inservienti, che il palco, e tutto ricomincia in perfetto orario. Quella che abbiamo ascoltato in apertura è stata Jennifer Hudson, ve l'abbiamo già ricordata, è presentata venerdì, la giovane cantante attrice americana, afroamericana, colpita lo scorso anno da un terribile lutto familiare, una terribile vicenda di sangue che ha portato via un paio dei suoi familiari, ma anche l'anno in cui ha conosciuto il definitivo successo come interprete di Dreamgirls e anche come cantante di grande qualità, ha offerto una versione particolarmente sentita e anche piuttosto originale di Star Spangled Banner, l'inno americano. La monetina iniziale, se non lo sapete ve lo raccontiamo noi, è stata fatta girare niente meno che dal generale David Petraeus. Non è che ci vanno leggeri, insomma, sono tutti lì, è una specie di luogo comune dell'America il Super Bowl, no? Va ben oltre la partita e l'evento speciale, si celebra in un certo senso il gusto, il piacere di essere americani. Tra le altre personalità presenti sugli spalti c'era un personaggio a cui vogliamo dedicare ancora due parole, era quel formidabile, indimenticabile Chesley B. Sullenberg, ovvero il pilota che qualche giorno fa, ricordate l'evento straordinario, riuscì a far atterrare il jet commerciale di cui era alla guida e che era andato in panne gravissime a causa di un fortuito scontro con uno stormo di uccelli, è riuscito a farlo atterrare nel fiume Hudson e tutti si sono salvati. Bene, ospite al Super Bowl di ieri c'era lui insieme a tutto il resto della crew dell'aereo in questione, insomma, ormai leggendario US Airways Flight 1549 della US Airways. E nella fattispecie ci siamo imbattuti in un articolo che vi vogliamo segnalare perché è un magnifico esempio di giornalismo americano, a firma di Robert Kölker. Lo trovate disponibile, accessibile a chiunque sul sito del New York Magazine, il settimanale che esce nella grande mela, è intitolato My Aircraft, il mio aeroplano, ed è la storia in parallelo del capolavoro compiuto da questo pilota che tutti gli amici chiamano Sully, anziché Sullenberger, quindi anche noi chiameremo Sully, e al tempo stesso una cronaca del perché poi a un certo punto questo signore, questo professionista, questo pilota è riuscito a portare giù quell'aereo e forse, come molti esperti dicono, tanti altri non ci sarebbero riusciti. Quindi è una cronaca anche dei ragionamenti che in quei scarsissimi paio di minuti che hanno condotto alla salvezza, perché l'aereo a quel punto, quando ha colpito gli uccelli, si trovava a 3200 piedi di altezza, 1000 metri di altezza, era ormai, stava mettendo il muso sulla sua rotta che era la Carolina. Sono successe una serie di cose straordinarie che hanno condotto a questo capolavoro. Questo articolo le analizza, ma per analizzarle analizza anche la biografia di Sully e ci spiega come ad esempio la sua formazione militare, la sua capacità di volo appresa attraverso l'Accademia Militare rivesta un ruolo centrale nella questione, quindi anche la sua età. Sully è un pilota vecchio, ma proprio in quanto vecchio è cresciuto con una generazione di piloti che apprendevano il loro mestiere in un modo diverso da quello con cui viene insegnato in questo momento. Infatti l'attacco del pezzo dice modern piloting is built on routines, il pilotare moderno è fatto essenzialmente di routine. Invece spiega questo articolo quello che ha saputo fare Sully, con cui ha salvato la vita ai suoi 150 passeggeri, è stato proprio prendere delle decisioni immediate, delle decisioni che non stanno su nessun corso di pilotaggio, che non ti insegnano quando i tuoi maestri ti danno le lezioni e che non sono neanche previsti da un simulatore di volo. I simulatori di volo, per esempio, racconta sempre questo articolo, non prevedono l'ammaraggio, l'atterraggio in acqua, non si impara ad atterrare in acqua perché, come dire, puntini, puntini, puntini. E poi racconta questo articolo in modo altrettanto brillante che comunque c'è stata anche un po' di fortuna in tutta questa storia, e questo è un particolare in più che voglio dirvi, nel senso che nel momento in cui l'impatto sfortunato con gli uccelli dell'aereo è avvenuto, la fortuna ha voluto, paralizzando praticamente immediatamente i motori dell'aereo, la fortuna ha voluto che quell'aereo, che da quel momento in poi avrebbe volato a vento, a vela in un certo senso, avesse il muso abbastanza in direzione da poter svoltare, da poter cabrare verso il fiume Hudson. Se tutto ciò fosse avvenuto mentre il muso era in un'altra direzione, probabilmente non ce l'avrebbe fatta, e quindi, come dicevamo, un po' di fortuna ci vuole. Cosa è stato uno degli eroi di questa straordinaria ma normale domenica americana, perché ci sono, gli americani si aspettano domeniche di questo genere in cui gli eroi vengono celebrati tutti insieme in un gran consesso, eroi e anche anti-eroi, perché ieri è stata anche la celebrazione di un caso di anti-eroismo, ovvero anzi di caduta, no, da almeno temporanea dall'Olimpo delle divinità. In questo caso torniamo a parlare di sport, parliamo di Michael Phelps. Nessuno oggi si salva dalla notizia che Michael Phelps è stato fotografato mentre fumava hashish a un festino con degli amici durante una sua visita, anche in questo caso in Carolina del Sud, come dire, la fatale Carolina. Andate in Carolina e aspettatevi novità. L'hanno fotografato, la fotografia è finita su News of the World, che è il più pettegolo, spietato, cattivo, rotocalco quotidiano scandalistico d'Inghilterra, ed è partita una fanfara, insomma, moralistica molto, molto dura, una reprimenda assai marcata nei confronti di Michael Phelps, che si è dovuto scusare pubblicamente, ha dovuto dire: mi sono comportato in maniera riprovevole, ho dimostrato cattivo giudizio, ho 23 anni, nonostante i successi che ho raccolto in vasca, mi sono comportato in modo inappropriato, non come la gente si aspetta da me, per questo mi scuso e prometto ai miei tifosi e al pubblico che non succederà più. E sappiamo tutti, no, che queste frasi sono state vergate dal suo ufficio stampa, non da Michael Phelps, che sarà contrito sicuramente, ma incavolato come una bestia in camera sua con la mamma che lo sta assai sgridando. Si hanno notizie di una madre in lacrime, si hanno notizie 4 anni fa, quando vinse le altre Olimpiadi a Mombasa, Michael Phelps fu beccato a guidare ubriaco, quindi è un ragazzetto piuttosto mosso, lo sanno anche le autorità sportive americane, mi sembra strano che si muovano poi, no, precipitosissimevolmente solo in queste occasioni, ma peggio così non potete dirlo. Però io vorrei anche dedicare un pensierino all'amico, no, in questo festino in una casa, l'amico che l'ha fotografato. Nessuno ne parla, ma ormai l'abitudine è quella, ragazzi, occhio a come vi comportate, c'è sempre un telefonino, nella fattispecie anche una macchinina fotografica che sembra autrice del capolavoro in questo caso, che vi spia, vi controlla, e se fate una porcheria e magari siete famosi, qualcuno ci ha guadagnato un sacco di soldi, non credo che News of the World quella foto l'abbia pubblicata gratis, quindi l'operazione è stata condotta anche, come dire, con una certa progettualità, no? E anche questa forse è una porcheria che fa quasi il paio con quella di Michael Phelps e le sue scuse. Oh, come sempre vi dicevamo, e chiudiamo con Barack Obama, eroe del mondo di là, almeno finché regge, no, la temperie, finché i guai non arrivano, alcuni sono già in vista. Dicevamo che ha approfittato del Super Bowl per parlare agli americani. I mean, we're going to roll out in a very formal fashion what our intentions are in Iraq as well as Afghanistan, but in conversations that I've had with the Joint Chiefs, with people... Ha parlato di Afghanistan, ha parlato di Iraq, anche perché un giornalista lo intervistava mentre in manica di camicia alla Casa Bianca stava per vedere la partita, ma poi c'erano collegamenti anche con i soldati al fronte, no? Una specie di triangolazione formidabile, e lui proprio di quello ha parlato nel messaggio più interessante che ha consegnato nel corso di questa intervista, dicendo che nelle consultazioni che ha avuto con vertici militari e responsabili sul terreno, ora che in Iraq si sono appena tenute importanti elezioni senza significativi episodi di violenza, abbiamo la sensazione di poter affidare maggiori responsabilità agli iracheni. Insomma, Barack Obama sta cominciando ad aprire la porta attraverso la quale, parole sue, un numero sostanziale, questa è l'espressione che ha usato, di soldati americani se ne dovrebbero tornare a casa dall'Iraq o in parte essere spostati in Afghanistan. In quella Afghanistan, e qui apriamo noi una porta per argomentazioni nei prossimi giorni, in quell'Afghanistan a cui Newsweek, il grande settimanale americano, dedica oggi la copertina, chiamandolo con parole che hanno un suono davvero sinistro e preoccupante, il futuro Vietnam di Barack Obama. Searching for his groove. Whole world looking pretty. You can't find a room. dai, fateci fare un po' i critici musicali, insomma, perché lo show di Bruce Springsteen va naturalmente prima di tutto criticato, caro Emiliano. Noi l'abbiamo visto, abbiamo assistito, era una roba bella monumentale. Non si prende a scatola chiusa Bruce Springsteen, no? Sì, certo, si prende a scatola, le critiche sono sempre veniali, insomma, però è andato lì con sta mandria di vecchi musicisti che poi sono anche i suoi amici, sono anche la sua vita. Diciamo che è stato uno spettacolo, dal mio punto di vista, molto affettuoso, nel senso che erano lì, se la suonavano, cambiavano le parole alle canzoni, facevano botta e risposta, facevano quasi dei fratelli de Reggio, non so, Cocchi e Renato con Steve Van Zandt, in condizioni fisiche spaventose invece rispetto al boss. È stato uno spettacolo che credo l'America si sia goduto fino in fondo, monumentale, grandioso, al tempo stesso un po' vecchio, ma il signore in questione, alias The Boss, ne suona 60 quest'anno. Va bene, andiamo avanti, è ora di dare la parola a voi. Ormai sapete che cos'è questa sigla e questo spazio. Express Yourself, sono i vostri pareri raccolti attraverso i nostri siti Facebook, che sono due, e quello Bacheca, dove segnalate o ricevete una mail relativa a questi pareri su un tema che ogni giorno vi proponiamo. Si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Oggi vi abbiamo parlato di esperimento bipartisan di Obama, e vi abbiamo chiesto: funziona? Rifacendosi alla questione, no, dei mesi difficili denunciati da Obama, dallo stimulus che la Camera ha approvato con 819 miliardi di dollari senza incassare neanche un voto repubblicano, con Obama che rilancia sulla necessità di essere politicamente bipartisan nella Washington di adesso, con il Senato che sta per mettere le mani su questo voto e le tentazioni bipartisan sembrano sempre più smosciarsi, no? Si sta tornando alla solita vecchia politica, e abbiamo chiesto il parere a voi. Allora, come sempre i pareri sono tanti, a valanga, c'è una gragnola di messaggi che piovono sui nostri siti Facebook. Direi che da una rapida empirica stima possiamo dire che sono più quelli contrari a questo spirito bipartisan. Cioè non ci credono, non ci credono. A parte per esempio Luigi Francesco Angelo, tre nomi ma una sola persona, mm-hmm, che addirittura fa alta filosofia, perché dice: i seri tentativi dovrebbero essere sempre bipartisan, compito della politica in questi momenti sarebbe quello di prendere delle decisioni coraggiose e spiegarle soprattutto ai propri elettori. A me pare che non solo in Italia, la politica sia molto debole e non sia in grado di creare una coscienza comune. Poi c'è, dicevo, una raffica di no, soprattutto, vediamo un po', allora c'è Gaspare che dice: non credo che il bipartisan possa portare buoni risultati, negli Stati Uniti i repubblicani sono troppo forti e orgogliosi per concedere ad Obama il sostegno che chiede. Poi c'è Gianmarco che dice: il fatto che questo esperimento abbia deluso in pieno le aspettative in una delle due Camere non è rassicurante. Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda Dario, che dice: il bipartisan non è indispensabile, meglio una seria opposizione che faccia il suo lavoro. Naturalmente noi il tema ve lo ponevamo anche così, lasciando intuire uno specchio con quello che succede da parte nostra, dove ciclicamente si parla di idea bipartisan, poi di solito la si rimette nel cassetto. Bruno dice: a lungo andare, con il riorganizzarsi delle forze interne ai repubblicani, Obama si dovrà scontrare con i vecchi fronti partitici. Luca scrive: le forze di Obama, al di là della sua storia personale, la forza è stata proprio quella di unificare il paese anziché dividerlo. A volte mi spaventano le politiche troppo bipartisan, mi fanno pensare al partito unico, però in momenti di crisi e sfiducia come questi il richiamo ai valori condivisi è non solo auspicabile ma necessario. Gustavo scrive: o si esce dal gioco dalle parti o si rischia grosso, funzionerà, un bel banco di prova per gli USA del terzo millennio, vedremo, io sono ottimista. Daniela: potrebbe funzionare ora in ragione dell'enorme consenso di cui gode Obama. Ritengo che anche per i repubblicani potrebbe essere controproducente negare la propria collaborazione. Daniela, parli esattamente, dici quello che scrive l'Economist di venerdì. Maurizio: secondo me Obama, sfruttando la popolarità del neoletto, farà approvare una serie di provvedimenti e modifiche senza troppi problemi, ma i veri test si avranno fra 12-18 mesi. Dubbi sulla tenuta. Ancora un paio, vai. Sì, anch'io c'ho qualche ottimista, addirittura c'è Ian quasi immaginifico che scrive: credo che il classico asse di lettura degli schieramenti politici, sinistra-destra, progressisti e conservatori, abbia ruotato di 90 gradi sulla terza dimensione, quindi auspico le iniziative bipartisan. più realista e crudo Andrea, che dice: le decisioni bipartisan sono utili essenzialmente a chi governa, perché il risultato, se ottenuto, non sarà mai una vittoria dell'opposizione. E questo è Express Yourself, tanti altri. Enrico: non vedo perché si continui con il mito bipartisan. Giovanni: credo che in politica il bipartisan giova poco ai partiti. Ci torneremo sopra, lasciamo voce a Springsteen. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. E dunque stiamo perfezionando il collegamento con Mario Platero a New York per fare quattro chiacchiere con Mario attorno agli andamenti presidenziali della Casa Bianca di Barack Obama. Sono due settimane, comincia la terza settimana di presidenza di Obama. Tante sono le cose che si muovono, tante, a me viene da dire quasi troppe, nel senso che viste da qua, non da Washington o da New York, ma viste da qua, si è come travolti, no? C'è come la sensazione che davvero stiano cambiando, che comunque i ritmi imposti da Obama alla sua amministrazione e di conseguenza alla nazione siano frenetici, eccezionali, quindi comunque forieri veramente di quel cambiamento che adesso, al di là degli slogan, vista l'aria che tira in America, soprattutto in economia, ma anche in tante altre questioni, è bene che qualcuno riesca a provocare. Poi ci sono anche parecchi inciampi, anzi si moltiplicano gli inciampi. Le ultime notizie riguardano il segretario della sanità, che è a sua volta inciampato in un altro guaio fiscale, l'ex senatore del South Dakota Daschle, che probabilmente dovrà trovare delle buone risposte da dare riguardanti alcune tasse non pagate. E poi c'è tutta questa storia dei nomi che tornano, a volte ritornano i clintoniani, è notizia di queste ore che si sono aggiunti altri clintoniani allo staff di Barack Obama, nella fattispecie Michael Froman e Robert Rubin, un pezzo da 90 dell'amministrazione di Bill Clinton, che daranno consigli a Barack Obama su questioni economiche, soprattutto sul piano internazionale. Ma abbiamo adesso in linea Mario Platero, e quindi le cose meglio ce le saprà raccontare e descrivere lui. Buongiorno Mario. Buongiorno. No, eccoci, buongiorno. Terza settimana di presidenza, un sacco di cose già accadute o perlomeno diciamo avviate, va? Cerchiamo di essere più moderati. Io vorrei due cose da te, un parere generale insomma sull'aria che tira in questo grande attivismo e però anche un commento su questi inciampi ripetuti nella formazione di questa amministrazione, che però forse per noi italiani potrebbero essere anche un po' una lezioncina etica su come si arriva davvero a una grande poltrona. Mario. Ma dunque, guarda, ci sono tre cose diverse che capitano. La prima è Barack Obama all'azione per cercare di risolvere la crisi, e direi che quella resta la priorità assoluta per questa amministrazione, e Obama si sta muovendo con grande rapidità, trova la sponda del Congresso, c'è già il pacchetto da 825 miliardi di dollari, 819 per essere precisi, approvato dalla Camera, adesso andrà al Senato, ci sono dei tentativi di compromesso coi repubblicani, probabilmente il pacchetto salirà a 900 miliardi di dollari, i senatori daranno qualcosa in cambio ai repubblicani per cercare di avere una maggioranza allargata. Sull'altro fronte il Tesoro sta mettendo a punto un piano per le bad bank, quindi per allargare quello che era stato lo stanziamento originario di 700 miliardi di dollari, 350 già erogati, 350 in arrivo, ma probabilmente ce ne vorranno degli altri per rimettere a posto il sistema bancario, il sistema finanziario, e dunque la Federal Reserve, che a sua volta si mobilita per trovare il modo di reperire questi quattrini attraverso delle manovre tecniche nuove, cioè sottoscrivendo delle obbligazioni del Tesoro. Ecco, quindi da una parte c'è tutto il comparto economico che è urgentissimo e gravissimo, la situazione resta difficile, purtroppo siamo ancora in mezzo al tunnel e dunque è giusto che ci si dedichi tanta attenzione e tanta energia. Dall'altra c'è più l'ordinaria amministrazione, che è complessa, e anche in questo Obama è riuscito comunque a lasciare il segno, perché ha già inviato George Mitchell in Medio Oriente come suo inviato speciale, ha già fatto delle dichiarazioni a proposito, è andato al Dipartimento di Stato, è andato al Pentagono, si è incontrato con i chief of staff del Pentagono, quindi coi generali del gruppo di Stato Maggiore, e così via, così via. In tutto questo ci sono poi scusami, ha firmato anche degli ordini esecutivi non secondari. Certo. Uno, per esempio, per assolutamente togliere qualunque dubbio della parità tra uomo e donna, certo, dal punto di vista, certo, salariale, quindi ha chiuso un gap che direi andava sicuramente chiuso, ha firmato tre ordini esecutivi per il sindacato, ha lanciato una task force per la classe media, per il sindacato diciamo ha riaperto in qualche modo le porte al sindacato che erano state chiuse durante, certo, l'amministrazione Bush. Quindi c'è uno straordinario attivismo che in qualche modo riscuote certamente ammirazione. Ecco, di contorno, come tu ricordavi, ci sono poi alcuni elementi di imbarazzo. L'ultimo è questo di Tom Daschle, e direi l'imbarazzo per ciò che riguarda Daschle non è soltanto per il fatto che non abbia pagato queste tasse, ormai è il terzo caso, no? Certo. Nel suo genere abbiamo avuto il segretario al Tesoro Tim Geithner, che tra l'altro doveva essere il supervisore del fisco, diciamo quella di Geithner era una cosa leggermente minore, abbiamo avuto Richardson che si è ritirato, certo, proprio perché aveva un altro problema di questo genere, e adesso ci sono le scuse, la cosa più recente sono le scuse di Daschle, che è stato nominato come segretario alla sanità. Il caso Daschle però è un po' più simbolico, se vuoi, del fatto che dietro la promessa di bipartisanship, di cambiare, di chiuderla con Washington as usual, alla fine Barack Obama in qualche modo, forse per necessità, forse per inevitabilità, ma finisce per poi cadere nei vecchi paradigmi del passato, e qui scopriamo, al di là della questione delle tasse, che Daschle in questi anni ha fatto il lobbista, si è dedicato molto a coltivare certi suoi rapporti, certo, che ovviamente aveva maturato a Washington, per poi in qualche modo riciclarli nel contesto privato, cosa assolutamente legittima, per, certo, carità. Ecco che però non è quel cambiamento netto che Obama voleva portare. Attorno a questo scandalo fiscale stanno emergendo altri dettagli, come non è così netta come poteva sembrare la proposta che sta emergendo per il senatore repubblicano del New Hampshire per nominare lui come segretario al commercio. Diciamo è un po' un colpo basso che va un po' contro la bipartisanship. Perché? Perché il New Hampshire ha un governatore democratico. Nel momento in cui il senatore repubblicano accettasse di diventare segretario al commercio, si libera un posto, il governatore democratico nominerà un senatore democratico e dunque i democratici al Senato raggiungeranno quella soglia di 60 voti che gli consentirà di evitare l'ostruzionismo che oggi, ancora oggi, mette in pericolo, certo. I democratici possono fare. Dunque, senti Mario, questo ha irritato un po' i repubblicani, insomma. Quindi, ecco, però, ecco, scusa, riassumendo, due settimane straordinariamente intense, soltanto a dire tutto questo, insomma. Ecco, ma all'atere di questo eccellente quadro che ci hai dipinto, noi oggi sul sito Facebook del programma abbiamo lanciato un sondaggio tra i nostri ascoltatori relativo anche ad alcune dichiarazioni un po' scettiche che alcuni politologi, saputoni, insomma, americani stanno facendo attorno all'esperimento bipartisan di Obama. Abbiamo chiesto agli ascoltatori se secondo loro funziona, soprattutto se funzionerà, e abbiamo raccolto parecchio scetticismo. C'è già qualche crepa si sta aprendo allorché si va ai voti, si va alla pratica. Qual è il tuo punto di vista su questa formidabile teoria espressa con tanta forza da Obama, finché era teoria, allorché si sta tramutando in pratica? Come la vedi? Ma dunque, è esattamente quel che ti dicevo prima, cioè a parole è facile a dirsi, in pratica è difficile a realizzarsi. Le obiezioni dei repubblicani, devo dire, non sono del tutto peregrine, tra l'altro, perché nel momento in cui lamentano che l'offerta fatta a Jude Gregg, che è appunto questo senatore repubblicano del New Hampshire, va in qualche modo a tirare un colpo basso, perché diciamocelo molto francamente, non è che Obama nomina Jude Gregg come un gesto distensivo nei confronti repubblicani, cioè sulla carta può sembrare così un gesto bipartitico, metto un repubblicano nel mio gabinetto di ministri, però l'obiettivo vero è di chiudere la maggioranza repubblicana al Senato, e dunque è un finto bipartisanship da parte sua, sicuramente partorito probabilmente dalla mente di Manuel, che poi è straordinariamente bravo nel mettere a fuoco queste cose. Mario, dimmi. L'altro punto chiave è nel pacchetto appunto in discussione di stimoli. Gran parte di questi stimoli, si è poi scoperto, vanno a finanziare poi alcuni progetti cari ad alcuni dei membri del Congresso, dei vari collegi elettorali, oppure di constituencies, di gruppi che sono più vicini ai gruppi democratici. Per cui l'obiezione repubblicana è va benissimo fare un pacchetto di stimoli per l'economia con investimenti infrastrutturali, però facciamolo. Dai calcoli sembra che gli investimenti infrastrutturali siano soltanto il 20% del pacchetto. Loro dicono portiamolo al 40%. E così via, così via. Quindi è un dibattito, però direi assolutamente normale, ciascuno fa le sue parti e quindi anche i repubblicani in qualche modo cercano di prendere le distanze poi da un pacchetto che secondo loro va contro la loro filosofia. Ma credo, il compito, sapevamo, non era facile. Certo, è il loro compito anche quello in questo momento come minoranza. Mario, ma vorrei chiudere, però scusa, ma facendomi un po' gli affari tuoi, perché ho saputo da fonti certe che tu non hai fatto come il buon presidente Obama, che si è messo in maniche di camicia a vedere la partita, ma che ben peggio invece ti sei messo, secondo me, in abito da sera o quasi, e sei andato praticamente nel bar più figo, insomma più rinomato di New York, cioè Lock Bar del Plaza, dove suppongo fra un cocktail e l'altro, chissà, no, cosa sarà successo, ti sei visto il Super Bowl, almeno una piccola, insomma, nota di colore, allora, ce la meritiamo, no? Vedo che sei informatissimo. Allora, no, la storia è questa: c'era una festa, organizzano spesso per il Super Bowl dei parties così fra amici, fra gruppi di persone che si trovano a casa dell'uno o dell'altro, un bar, un evento. Ecco, allora qualcuno, nella fattispecie una delle socialite newyorkesi, si chiama Peggy Siegel, ha organizzato una serata a questo Oak Bar, mettendo insieme un gruppo di persone che hanno invitato, che erano un gruppo misto, non so, Ken Auletta, che è uno scrittore, Larry Gagosian, che è un grande gallerista, e poi c'erano Charlie Rose, che è una star televisiva, insomma era un gruppo così piuttosto interessante di persone che si è dato appuntamento all'Hochbar, direi prima, un'oretta prima della partita, ecco, per cominciare a vederla e star lì e cenare. C'erano grandi schermi messi dappertutto, super altoparlanti, quindi, ed era una cosa molto carina, perché tra l'altro non era affatto formale, ti dirò, ero anch'io in maniche di camicia, e c'erano anche i ragazzi, c'erano giovani, c'erano ragazzini, ragazzi. Ci hai fatto morire dall'invidia, hai fatto era un gruppo, no, era un gruppo molto misto. Detto questo, così, ambiente divertente, ti dirò la seconda parte, però poi li ho lasciati e me la sono goduta invece con concentrazione a casa da solo, all'italiana, meglio, famiglia, perché è stata, diciamolo, una partita straordinaria, credo il miglior Super Bowl degli ultimi anni, meglio ancora di quello dell'anno scorso. C'è stato questo touchdown finale di Holmes che 15 secondi dalla fine ha ribaltato completamente il risultato, una partita meravigliosa, quindi quello poi prevale su tutto. E noi ti ringraziamo, un abbraccio da Roma e un'invidia, un segno di invidia per l'Hochbar. Era Mario Platero da New York, abbiamo parlato dell'inizio della terza settimana di Barack Obama. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Noi siamo qui che stiamo immaginando la serata all'Hochbar di New York con la partita, altro che partita in mutande, come quella è vita, cari ascoltatori. Vabbè, mettiamo giriamo pagina, come si dice, e passiamo a fare il nostro lavoro, le notizie. Io non ci credo che se n'è andato a metà della partita. Anch'io stavo pensando a questo. Mo. Poi maniche di camicia all'Hochbar, non lo so. Andare in famiglia. Mo. Allora, ci spostiamo in Medio Oriente per notizie purtroppo meno prosaiche, perché George Mitchell, peraltro citato anche da Platero pochi minuti fa, ha concluso il suo primo importante lungo viaggio in Medio Oriente. Mitchell è l'inviato in Medio Oriente della Casa Bianca, ha chiuso questo suo giro con un incontro con il re saudita Abdullah, e con questa visita in Arabia appunto chiude questa prima tornata, e dopo aver toccato Israele, Cisgiordania, Egitto e Giordania. Nel colloquio pare che il sovrano saudita abbia sottolineato la necessità di assicurare la creazione di uno Stato palestinese indipendente. Ricordiamo che è importante la posizione dell'Arabia Saudita, che assieme all'Egitto, che mi sembra di aver capito in questa situazione medio orientale sempre incerta e sempre appesa a un filo, che sia stata poi la nazione più attiva nel cercare una via di pace tra israeliani e palestinesi. Dicevo, l'Arabia Saudita assieme all'Egitto sostiene apertamente l'autorità nazionale palestinese e il presidente Abu Mazen. Tra l'altro la settimana prossima si vota in Israele, quindi sicuramente l'attenzione salirà ulteriormente. Stefano, se posso, vorrei segnalare un articolo, una lettera oggi sul Corriere della Sera di Amos Oz, dal titolo inequivocabile La vendetta non serve, in cui il famoso importantissimo scrittore israeliano prende posizione molto dura nei confronti di Olmert, che ha detto insomma nell'ultima ora che Israele risponderà in modo sproporzionato a ulteriori attacchi di Hamas. La traduzione di questa lettera è di Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, già citato più volte nelle nostre trasmissioni, e domani, a meno che non verrà subito richiamato in forza, dovrà partire per il domani, sarà ospite nei nostri studi milanesi, quindi altra occasione per approfondire il tema caldissimo del Medio Oriente. Quindi appuntatevi, Cremonesi a Jefferson 2 domani, se avete domande sapete dove formularle. Io invece vi parlo di un altro protagonista legato ai due mandati, soprattutto agli ultimi anni del mandato di George W. Bush, ovvero l'ambasciatore americano in Iraq, che molto bene ha fatto. Queste sono veramente bipartisan le lodi e gli apprezzamenti nei confronti del lavoro di Ryan Crocker, che ha annunciato di essere giunto al termine del suo incarico dopo 2 anni appunto di servizio nella capitale irachena. Lo riferisce l'agenzia stampa appunto irachena. Si è congedato con i locali convocando i capi redattori delle principali testate irachene e non ha voluto anticipare il nome del successore. Ha assicurato che completerà il percorso intrapreso e che realizzerà ancora nuove collaborazioni con il governo iracheno. Insomma, la sensazione, peraltro corroborata dalle parole di Barack Obama nell'intervista in area Super Bowl ieri domenica, la sensazione di questa smobilitazione ormai è fattuale, si tocca con mano se anche i principali cervelli della presenza americana a Baghdad come Crocker fanno la valigia. Il Papa è stato protagonista negli ultimi giorni anche qui a Jefferson Ming. Insomma, abbiamo ricostruito la vicenda dei Leferviani, abbiamo parlato anche dei nuovi rapporti con noi Obama. Siamo Jefferson 2, ecco, sono rimasto ancora affezionato. Che tu ci chiami con il nostro nome. Lapsus, spero non freudiano, insomma. Jefferson 2, sì, il Papa protagonista anche in questa nuova versione, in questa nuova veste del programma. Torna a far discutere il nostro pontefice Benedetto XVI per una notizia, tra l'altro, di qualche giorno fa che vorrei riprendere, perché è stato nominato vescovo di Linz Gerhard Wagner, altro ultraconservatore. Io cito soltanto alcune dichiarazioni dette qualche tempo fa da Wagner. Una riguarda l'uragano Katrina, che distrusse buona parte di New Orleans nel 2005. Disse: non è stato un caso se sono state distrutte 5 cliniche abortiste nella città. E poi il vescovo si domandava se la catastrofe naturale non sia stata conseguenza di un inquinamento spirituale, quindi parole durissime. E poi ancora prima, nel 2001, se la prese addirittura con i romanzi di Harry Potter. Qui Stefano potesse intervenire anche come genitore, perché disse che, insomma, la saga della Rowling può portare a forme di sanatismo. Se c'è uno pericoloso in questo momento al mondo, Harry Potter, caspiterina. Oh, cambiano i presidenti e quindi cambiano, non so se c'è una connessione, ma secondo me sì, cambiano anche gli editorialisti. È interessante il name dropping, la caccia al nome che si fa in queste ore al New York Times, dopo che Bill Kristol ha lasciato la sua posizione di editorialista al New York Times, perché Bill Kristol, all'interno del New York Times, che è un giornale di orientamento, non ufficialmente, ma insomma lo sanno tutti, liberal, era il conservatore, quindi giocava, tra l'altro, in modo straordinario, perché è un eccellente giornalista, ma anche, come dire, in modo dichiarato, voluto, desiderato, il proprio ruolo di bastian contrario, e quindi di conservatore nella casa dei liberal. Si è concluso il suo contratto, lui ne ha nel frattempo acceso un altro assai ben remunerato a Fox News, e si litiga per chi debba essere il conservatore di casa dentro il New York Times, giornale che peraltro in queste settimane sta passando guai ben più grossi dal punto di vista economico. I nomi che si fanno sono diversi. Il favorito è Stephen Colbert, che è un conservatore molto atipico, chiamiamolo così, molto provocatorio, straordinariamente originale, e se sarà lui a occuparsi di fare le pulci ai liberal nella casa dei liberal, segnatevi questo nome, Stephen Colbert, perché scriverà sicuramente belle cose. Ci siamo, poco, una, via. Uno dei paesi di cui si parla meno, direi quasi mai, insomma, anche perché è davvero impenetrabile, è la Corea del Nord. Ebbene, noi registriamo invece un durissimo attacco che arriva dal più importante giornale nordcoreano, si chiama Rodong Sinmun, sì. Un attacco rivolto ai vicini di casa, scomodissimi, della Corea del Sud. Sono parole di fuoco, perché addirittura si insinua che la linea dura scelta da Seul, che da un paio di tempo ha cambiato governo e più che applicare la distensione, insomma, sta applicando la mano pesante nei confronti del Nord, dicevo, questa linea potrebbe portare Pyongyang, secondo Pyongyang, un conflitto militare addirittura incontrollabile e inevitabile nella zona. Quindi veramente si annunciano tensioni altissime tra nord e sud in questa linea di confine, che è stata anche al centro di una guerra decenni fa degli Stati Uniti. Anche gli ascoltatori scrivendo, mandando sms al 349-238-6666, dubitano della tenuta bipartisan della presidenza di Obama. Simo scrive: le lobby vengono subito ripagati, altro che change, tutti questi soldi pubblici chissà in che mano andranno, in che mani andranno. E nel frattempo continuano ad arrivare messaggi anche sul sito Facebook. Mauro Adlayan appena scritto, ma purtroppo tempo tiranno. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, e ditemi in interfonico Valeria Bernardi a Milano, mail jefferson2radio24.it, su Facebook ci trovate a redazione Jefferson 2 se volete parlare con noi o per esprimere pareri riguardo ai temi che vi lanciamo, usate la bacheca. Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, dal sito della radio tutti i collegamenti necessari, replica alle 24, diretta alle 4 di domani, alle 16 di domani, come sempre qui su Radio 24. Ci risentiamo, perché ridi? Per i pugni sul tavolo. Perché voglio imporre. Tutti alle 4 domani. Tutti alle 4, ci risentiamo, grazie.